infida perché ti porta alla malfidenza. Cioè la prima cosa che fai tu quando hai un possibile partner... Ci facevano un po' il lavaggio partner, del cervello, certo. È indagare il passato del tuo possibile partner. Da Alessandro Bertante in gara con Gli ultimi ragazzi del secolo passiamo a Luca Doninelli, autore di Le cose semplici, pubblicato da Bompiani. In questo romanzo si racconta la storia d'amore fra Dodò e Chantal, ma è una storia particolare. Si tratta di un romanzo distopico nel quale Doninelli immagina un mondo futuro in disgregazione. Un mondo dove, per esempio, non esiste l'energia elettrica, non esistono i carburanti. In questa strana situazione, Chantal resta bloccata a New York, proprio perché, insomma, manca il carburante, quindi gli aerei non volano più, le navi sono ferme e così via. Eppure questo legame fra Chantal e Dodò rimane solido e fortissimo per 20 anni, nonostante l'uno non sappia più niente dell'altra, appunto, per tutti questi 20 anni. Nel romanzo Doninelli ha voluto anche fare un riferimento a una critica sociale, visto che il mondo va a rotoli per la mancanza di fiducia, come lui stesso scrive e racconta. Nel momento in cui viene meno il contratto sociale, viene meno questa fiducia elementare su cui si basa tutto il resto, allora si cominciano veramente i guai, no? Però questo mi è sembrato la metafora di un'altra cosa, cioè del fatto che potrebbe essere così per tutto, non solo per il contratto sociale, ma per la mia vita personale. La storia fra Dodò e Chantal è una storia d'amore, una grande storia d'amore, sembra quasi d'altri tempi. È per questo che l'hai inserita in un contesto dove spazio e tempo sono così diversi dagli attuali. Ma non è d'altri tempi, io e mia moglie siamo sposati innamoratissimi da 30 anni, quindi... Però forse non siete stati separati 20 anni come loro due. No, però sai, 20 anni sono una metafora che può essere la metafora di un istante. Giovanni Testori, poco prima di morire, dicevo, ma tu al paradiso o all'inferno ci credi a queste cose qui? Gli avevo chiesto. Lui mi aveva detto, guarda, dice, io ci posso credere, però penso che l'inferno duri una frazione di secondo. Perché dice, cosa c'è di più orribile che sentirsi separati dalla propria origine, separati da tutto? Dice, una frazione di secondo basta. Questo deve aver lavorato in me in qualche modo, no? Per cui i 20 anni sono la metafora di quelle in realtà continue separazioni. Possono essere di un istante, può essere un litigio, sai, voglio, tutto nasce dalla vita quotidiana, tutto è dentro la vita quotidiana, lo diceva Aristotele già, no? Perché noi guardiamo le vicende che occorsero a re, regine, eccetera, perché sono in grande quello che ci succede tutti i giorni, no? Allora lì, insomma, questi 20 anni noi leggiamoli pure come i 20 anni che ci sono sempre tra due persone che si vogliono bene in un momento, perché c'è una pagina qui di cui sono molto soddisfatto quando lui dice sì, a Boston, dice sì, quella mattina era bella e in quel momento lui dice era così bella Chantal quel giorno, ma io, a un certo punto dice, ma cos'è che c'è, cos'è che c'è? Era proprio bella, era vestita bene, cose così. Non ero innamorato di lei quel giorno, no? Ecco, un po' così, ecco, e per cui sai, i 20 anni, ma tutti noi sappiamo cosa sono quei 20 anni lì, queste sono immagini, insomma, no? Questo era Luca Doninelli, autore di Le cose semplici. Altro finalista al premio Campiello è il romanzo Le regole del fuoco di Elisabetta Rasì, pubblicato da Rizzoli. In questo caso l'orrore, tema portante, come dicevamo, di questa cinquina Campiello, è la Prima Guerra Mondiale. Ci sono due ragazze molto diverse, Maria Rosa ed Eugenia, fanno le infermiere volontarie in un ospedale sul Carso, dove ogni giorno arrivano soldati feriti e orrendamente mutilati. L'autrice, per questo, diciamo che ha consultato i diari di molte infermiere inviate al fronte in quel periodo, quindi si è documentata, si è ispirata appunto alla realtà. I personaggi però sono assolutamente di fantasia. Maria Rosa è una ragazza che è andata in guerra per fuggire da un ambiente borghese di Napoli, da una madre invadente. Anche Eugenia, in un certo senso, è in fuga dal suo contesto, vuole fortemente diventare medico, anche se era una cosa, diciamo, insolita per una donna in quel periodo. Fra Eugenia e Maria Rosa nasce una storia d'amore. I ritratti di queste due donne sono stati ispirati all'autrice dalle sue nonne. Sentiamola. Diciamo che appunto da ricordi familiari legati un po' a una figura che c'era a casa di mia nonna quando ero bambina, che chiamavano con un nome francese, che era una giornalista, cosa che negli anni 50 della mia prima infanzia era molto strana per una donna. Poi effettivamente portava i pantaloni, aveva i capelli corti e si sussurravano strane storie che io non ho capito, però mi è rimasta impressa questa figura. Poi ho l'altra figura un po' a cui è ispirata Eugenia, invece era l'altra mia nonna, che era stata, secondo lei, perché era una donna che tendeva a mitizzare un po' il suo passaggio, era stata per qualche tempo infermiera dopo Caporetto ed era una donna della piccola borghesia, in quel caso romagnola, ma comunque settentrionale. Allora mi sono venuta incontro, fuori da ogni però riferimento familiare, in realtà mi sono venuta incontro a queste due figure femminili molto diverse. Ci tenevo che fossero molto diverse, perché è vero che tra loro, dopo un'ostilità iniziale dovuta al fatto che una è una privilegiata che non sa fare niente, Maria Rosa, abituata a essere servita, a essere viziata, anche se infelice di questa condizione e desiderosa di qualcosa di più vero e di più autentico. L'altra invece è la figlia di un veterinario lombardo, abituata a sgobbare fin da bambina, che è lì anche lei però perché non vuole un destino convenzionale femminile, ma ha un sogno molto ambizioso, vuole diventare medico. All'inizio questi due mondi confliggono. E allora io penso che l'incontro tra le persone, molto interessante, molto fruttuoso, a volte di amore, a volte di amicizia, ma sempre di conoscenza, se avviene fra persone diverse, non importa che siano dello stesso sesso, non ho voluto raccontare una storia d'amore omosessuale, ho voluto raccontare l'incontro tra due persone. Poi sì, è sì, vero, poi un incontro che avviene, come dire, su uno sfondo particolarmente duro, doloroso, feroce, sì, che era quello della guerra, perché sì, in questo libro c'è molto l'orrore, sì, della guerra. Non è, come dire, solo lo sfondo, ma potremmo dire che è un po' il terzo protagonista, la terza protagonista, la guerra. Sicuramente ci sono anche molti uomini, uno dei quali è una figura molto importante per la storia futura di Maria Rosa. Ma ecco, lì mi hanno ispirato molto i diari di queste crocerossine, di queste infermiere. Mi sono molto affidata al loro modo di raccontare la storia, che era un modo, diciamo, assolutamente realistico, perché c'è proprio, diciamo, questo ospedale di cui parlo è un ospedale che sta dietro il fronte, no? Per cui lì arrivano veramente i disastri della guerra, la guerra nella sua essenza più tremenda, che sono questi corpi maciullati, no? Tutto questo nei diari è raccontato, sono raccontati i bombardamenti, le fughe nelle cantine dell'ospedale. Io naturalmente mi sono affidata a diverse narrazioni che poi ho unito, come dire, nella fiction della mia storia. Però appunto c'è anche una certa impassibilità nel raccontare tutto questo e io ho cercato di riprodurla. Naturalmente è una situazione di emergenza, però ho pensato anche che molto spesso le donne approfittano dell'emergenza per sgattaiolare da sentieri troppo già battuti, predefiniti. Precostituiti, sì. E questa era Elisabetta Rasì, finalista al premio Campiello con Le regole del fuoco. Il cacciatore di libri. Riprendiamo questa puntata speciale dedicata al premio Campiello che verrà assegnato stasera a Venezia. Altro finalista è Andrea Tarabbia, autore di Il giardino delle mosche, pubblicato da Ponte alle Grazie. Racconta in modo romanzato ma anche ben documentato la storia del cosiddetto mostro di Rostov al secolo Cicatilo, che uccise 56 persone fra il 78 e il 90 nell'allora Unione Sovietica. Si trattava soprattutto di bambini, di donne o comunque di persone deboli, diciamo anche ai margini della società. Fatti veri, documentati anche dagli atti del processo, accanto ai quali l'autore ha cercato di descrivere i ragionamenti di Cicatilo, insomma ha cercato di entrare nella mente del serial killer senza emettere dei giudizi. Ma perché Tarabbia ha deciso di raccontare proprio questa storia? Sentiamolo. In realtà è molto difficile rispondere a questa domanda, perché non c'è un momento nella vita di uno scrittore in cui uno scrittore decide adesso faccio questo tipo di libro, racconto questo tipo di storie. Diciamo che la storia di Cicchettino è una storia che mi ha affascinato da sempre, perché lui è stato arrestato nel 90, io avevo 12 anni, e lui era una figura affascinante per come sono affascinanti, quando hai 12-13 anni, insomma, tutte le figure che compiono il male estremo. Ed è rimasto, diciamo, come un basso continuo della mia vita. Io non sono uno studioso o né tantomeno un ammiratore, insomma, dei serial killer o di questo tipo di persone, però sono uno che è molto affascinato da quelle persone che superano nel bene come nel male i cosiddetti limiti dell'umano, in qualche modo, cioè che vanno, tirano allo spasimo quelle che sono le nostre pulsioni più segrete. E Cicchettino è un po' un paradigma di questa cosa, quindi a un certo punto ho pensato che poteva essere bello per me scrivere la sua storia. Io, leggendo la storia di Cicchettino, sono rimasta ovviamente molto scioccata anche dal suo passato, perché è stato un passato, un'infanzia di violenza. Sì. Lui ha visto, per esempio, la madre stuprata da soldati tedeschi. Sì. Aveva una madre che gli ha dato un'educazione anche molto rigida, quindi sì, attraverso tutta una serie di violenze da lui subite e ha poi perpetrato quel meccanismo che lui conosceva. Quanto tu ti sei documentato sulla vita di Cicchettino e quanto invece hai dovuto naturalmente inventare su alcuni suoi aspetti psicologici? No, allora, mi sono documentato parecchio, facilitato dal fatto che di libri su Cicchettino ne sono usciti parecchi, scritti da criminologi, da psichiatri, anche da altri romanzieri, perché non sono il primo che si cimenta con la sua storia. Quindi mi sono informato parecchio, ed è stato un lavoro relativamente semplice perché appunto si trova tanto materiale. Poi ci sono, ed è questo il motivo per cui scelgo certe storie anziché altre, nella vita di Cicchettino, nonostante i documenti, nonostante gli atti dei processi, eccetera, dei momenti in cui ci sono dei buchi, cioè non si sa davvero nell'anno X che cosa lui ha fatto, che cosa è successo, che cosa ha pensato. Insomma. E lì sono, diciamo, quegli spazi in cui tu puoi permetterti di inserirti come narratore, insomma, con la fiction, con la fantasia. Quindi diciamo che è un libro, qualcuno ha detto che è una biografia, qualcuno invece lo chiama romanzo storico, eccetera. È un po' tutto questo, nel senso che... Io lo chiamo romanzo psicologico, perché veramente mi ha fatto capire dei meccanismi della mente criminale, ecco. E non so se poi tu sei d'accordo su questo, però la cosa che ho avvertito soprattutto è il percorso veramente di come un uomo arriva a diventare un serial killer. Il romanzo psicologico è una definizione che accetto come insomma, come accetto le altre che ti ho fatto. Poi in realtà uno non è che quando parte alla pagina bianca davanti dice adesso faccio un romanzo psicologico, poi faccio un romanzo in categoria, no? Metterlo in categoria, certo. Però sì, cioè in realtà uno degli scopi, insomma, con cui ho aperto questa pagina bianca e ho cominciato a riempirla con la sua storia era quello di fare un ritratto della mente di quest'uomo, di che cosa cercare di capire. Non ti so dare per certo se l'ho capito oppure no, però insomma l'idea era quella di cercare di capire qual è il meccanismo che porta una persona che tutto sommato per un certo numero di anni della sua vita è stata una persona anche apparentemente comune, normale, grigia, no? Insomma, niente, sì, niente di particolare. A un certo punto scatta questa cosa e lo fa diventare l'individuo più orrendo del Novecento. E questo era Andrea Tarabia, finalista al Campiello con Il giardino delle mosche. Ultimo libro in gara, lo dicevamo in rigoroso ordine alfabetico per cognome degli scrittori, è quello di Simona Vinci, che si intitola La prima verità, pubblicato da Einaudi. Un romanzo, anche questo, ispirato ad una storia vera, la scoperta di un manicomio nell'isola greca di Leros. Un manicomio dove finivano anche i bambini, per esempio, che venivano abbandonati dai genitori, oppure ci finivano i prigionieri politici dopo il colpo di stato dei colonnelli. Un libro che si sofferma sul confine fra normalità e follia e sui fantasmi che ognuno di noi, in un modo o nell'altro, si porta dentro. Ecco come Simona Vinci parla dell'origine del suo romanzo. Sicuramente era un periodo della mia vita particolare in cui uscivo da un altro romanzo che si chiama Strada Provinciale 3, che è la storia di una donna che non si sa da dove venga e dove stia andando. E quel personaggio aveva molto a che fare con quel periodo per me proprio, e ho cominciato a interessarmi al disagio psicologico, al disagio psichiatrico, e ho cominciato a cercare delle storie da poter raccontare. Mi sono imbattuta in questa vicenda dell'isola di Leros e del suo manicomio, e ho capito che era una storia che ancora non era stata forse raccontata in modo poi appunto romanzesco, come io ho cercato di fare, quindi rielaborando questo materiale storico in un modo narrativo che fosse fruibile dal maggior numero di persone possibile. Questa è sicuramente fiction, però prende spunto da fatti assolutamente veri, perché in quest'isola greca di Leros c'era appunto un manicomio, ma c'erano anche in questo manicomio dei prigionieri politici, per esempio. È vero che le storie sono inventate, ma quanto ti sei fatto ispirare appunto da documenti veri che hai potuto vedere? Poi tu alla stessa alla fine dici che hai visto anche una mostra fotografica di una fotografa che aveva immortalato, insomma, alcune scene dei manicomi che purtroppo in qualsiasi luogo del mondo sembrano un po' tutti uguali. Sì, le immagini di Antonella Pizzamiglio, che è una fotografa che molto giovane arrivò sull'isola proprio quando era appena scoppiato lo scandalo nel 1989, uno scandalo che grazie a due reporter della BBC fu poi portato in tutto il mondo, fu portato a conoscenza di questa vicenda, di questo manicomio lager che esisteva già dal 1959 in Grecia. La storia più romanzesca di questo libro, che è un libro particolare perché dentro c'è reportage, c'è poesia, c'è memoir, ci sono tanti generi intrecciati, è ambientata negli anni tra il 67 e il 69, durante il periodo della giunta dei colonnelli. In quel periodo molti dissidenti vennero mandati in una serie di isole, tra queste isole c'era anche l'isola di Leros, sulla quale c'era anche questo manicomio. I prigionieri politici, diciamo così, più noti, come può essere stato il poeta Giannis Ritsos, al quale tra l'altro è ispirato uno dei personaggi del romanzo, in verità non stava nella zona del manicomio, ma era detenuto nelle caserme dell'esercito. Però altri dissidenti, si ha notizia di altri dissidenti che non erano noti come lui all'opinione pubblica internazionale, e quindi vennero gettati insieme ai malati di mente, di loro non si è saputo più nulla. Questi dunque i cinque finalisti del premio Campiello che verrà assegnato stasera a Venezia. Nel giornale radio delle 23 vi daremo il nome del vincitore. È stato invece già scelto dalla giuria dei letterati il vincitore del Campiello Opera Prima. Si tratta del libro La teologia del cinghiale di Gesuino Nemus, si tratta di uno pseudonimo, pubblicato dalla casa Elliot. Prima di chiudere questa puntata speciale dedicata appunto al premio Campiello, due segnalazioni di festival letterari. Innanzitutto Pordenone Legge, 17ª edizione, dal 14 al 18 settembre in vari luoghi del centro storico appunto di Pordenone. E allora subito vi segnalo che appunto fra gli ospiti di questo festival ci sarà anche il vincitore del premio Campiello. Complessivamente più di 300 incontri con scrittori, saggisti, filosofi, sia italiani che stranieri. Impossibile naturalmente citarli tutti, diciamo che segnaliamo un po' i nomi più popolari. Allora ci sarà per esempio la scrittrice Kathleen Sheehan con il nuovo romanzo Le cose cambiano, Peter Hoeg con L'effetto Susan, ci sarà Irvin Welsh, scrittore famoso per Trainspotting, con il nuovo romanzo, ma ci sarà anche il regista Gianni Amelio, che presenterà Pordenone Legge, il suo primo romanzo. Una delle scrittrici più amate dalle italiane, la spagnola Clara Sanchez, appunto con il suo ultimo romanzo Lo stupore di una notte di luce. Ancora qualche nome, diciamo, fra quelli più noti: Corrado Augias, Susanna Tamaro, Claudio Magris, Giampiero Mughini, Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega di quest'anno, Diego De Silva, Mauro Corona, Marco Malvaldi. C'è spazio naturalmente anche per bambini e ragazzi. Vi dico che trovate tutto il programma su pordenonelegge.it. Questo festival, lo ricordiamo, dal 14 al 18 settembre. Ci spostiamo invece al sud per un altro festival letterario di fine estate, Tau Taubook, Taormina International Book Festival, da oggi, proprio da sabato 10 al 17 settembre, quindi un'intera settimana. La sesta edizione è dedicata al tema Gli altri. Fra gli ospiti, così come sempre, cito un po' quelli più noti: Simonetta Agnella Orbi, Edoardo Albinati, appunto vincitore dello Strega, Alberto Angela, Pupi Avati, Camilla Baresani, Michael Cunningham. Per i fan di Antonio Manzini e del suo Rocco Schiavone ci sarà anche lui. Anche a questo festival sarà presente la scrittrice spagnola Clara Sanchez. E vi segnalo anche che proprio a Taubook a Taormina il nuarista Massimo Carlotto presenterà il suo nuovo thriller, che insomma dà inizio ad una nuova serie che si intitola Il Turista. Tutte le informazioni sugli ospiti di questo festival su Taubook, scritto proprio Taubook, Buk.it. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri che avete sentito è stata dedicata al premio Campiello e a un paio di segnalazioni, insomma, di festival letterari importanti in questo periodo è tutto. Grazie in regia a Paolo Corleoni. Vi ricordo che potete seguirmi su Twitter per essere sempre aggiornati e trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.